24 mattino. Premetto che non sono albanese, ma trovo vergognoso il non aprire a un paese come l'Albania in questo momento e invece accettare però il loro aiuto con i 90 medici, infermieri quando noi avevamo bisogno. Lo trovo veramente ridicolo. Perché sul MES non si può organizzare un dibattito pubblico con un moderatore onesto che conduca il dibattito? Sul primo punto, sinceramente, sul tema dell'Albania, non so che dire, la prendo com'è, non, sono sincero, cioè della condizione epidemiologica dell'Albania, sulla condizione epidemiologica dell'Albania non ho dettagli. Di certo sappiamo quello che hanno fatto i medici albanesi che sono venuti qua quando c'è stato il momento del bisogno. Abbiamo massimo rispetto e massima attenzione e massima gratitudine ovviamente per quello che hanno fatto. E sul secondo punto, è quello che stiamo dicendo da giorni, caro ascoltatore, è che il problema è che la questione del MES è ormai una questione politica. Cioè non si riesce a fare un ragionamento di sostanza sul MES, sul fondo salva stati, perché ci sono delle posizioni consolidate e fossilizzate. Mi riferisco in particolare a quelle del Movimento 5 Stelle, per quanto anche una persona come Carlo Sibilia, sapete chi è, no? Del Movimento 5 Stelle, quello che andava a protestare davanti alle riunioni di Bilderberg per darvi un'idea, adesso dice, nella giornata di ieri, ha detto... però, insomma, se è senza condizioni ci si può ragionare. Però, al momento è una questione essenzialmente politica. Nessuno vuole scontentare il proprio elettorato, in particolare non lo vuole scontentare il Movimento 5 Stelle in vista del voto per le regionali di settembre. Parliamoci chiaro, questo è. E dall'altro lato c'è la pressione del Partito Democratico che per conto suo vuole marcare la distanza e confermare la vicinanza al mondo europeo. Punto. Non c'è molto da dire su questo. Il ragionamento di sostanza cosa direbbe? E so che qua ci saranno mille contestazioni su questo fronte, che nel momento nel quale tutte le dichiarazioni, tutto quel che c'è scritto va nella direzione di un MES senza condizioni eccetto l'utilizzo per spesa sanitaria, non si vede perché uno non debba prendere un prestito a tassi così bassi. Punto. E io so quali sono le obiezioni che arriveranno dopo. Ah no, ma ci fregano dopo, le condizioni ce le mettono dopo. No, non, le condizioni non te le possono mettere dopo su questo fronte. Noi la vera condizione che abbiamo è il livello del nostro debito pubblico, la vera condizionalità che abbiamo è il livello del nostro debito pubblico che sta continuando ad aumentare e i tassi di interesse che paghiamo sul debito che emettiamo costantemente. Questa è l'unica condizione che abbiamo ed è poi il motivo per il quale noi saremmo eventualmente interessati al MES e altri paesi no, perché altri paesi si finanziano sul mercato a tassi molto più bassi. Semplice com'è. E questo sarebbe il ragionamento di sostanza, però sul ragionamento di sostanza non si riesce a stare in questa fase, evidentemente. È una questione di braccio di ferro, mi pare chiaro. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, oppure gli SMS, i messaggi su WhatsApp, quello che volete. In questo mercoledì 1 luglio, alle 7:23 minuti e 24 secondi, è la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Giornali che sono... le aperture sono varie, insomma ormai qualche giorno che è così, un po' se volete a testimonianza del fatto che non c'è un argomento dominante. Quello di oggi forse alla fin fine è il tema dei confini europei e del fatto che l'Europa decide appunto di aprire le frontiere a 15 paesi extraeuropei. C'è la Cina, ma non ci sono gli Stati Uniti e la Russia, e l'Italia decide di mettere in quarantena chiunque arrivi da paesi extraeuropei. L'apertura del Sole 24 Ore è: turismo, senza gli Stati Uniti 5 miliardi in meno, è il titolo principale. Quotidiano Nazionale: l'Europa apre i confini, l'Italia solo un po'. La Repubblica: virus, l'Europa apre, l'Italia no. Sul fronte economico invece e delle questioni europee si sofferma La Stampa, la cui apertura è dedicata a un'intervista realizzata col vicepresidente della Banca Centrale Europea De Guindos, il quale scuote l'Italia, secondo il titolo della Repubblica: fate le riforme. Il Corriere della Sera ci parla dello stop al condono, che si ipotizzava un condono, come sapete, nel decreto semplificazioni, ne abbiamo parlato ieri, si è deciso di stralciare il tutto. È dedicata invece alla vicenda di Alzano l'apertura del Messaggero. Alzano, casi ignorati a dicembre, ne abbiamo parlato poco fa alle 6.45. E invece Libero, il giornale, il Fatto Quotidiano si concentrano sulla vicenda di Silvio Berlusconi. Ne parleremo poi tra un attimo con Paolo Mieli. La giustizia si vergogni, condannò Silvio senza motivo, è il titolo di Libero. Esce la verità su un episodio di vigliaccheria. Il giornale: le carte del golpe, il silenzio dei complici, è il titolo. Il Fatto Quotidiano: 368 milioni di dollari, morto che parla. Nel 2013 firma la condanna per frode coi quattro colleghi, ne sigla le 208 pagine, poi va da Berlusconi e grida al complotto, ora è morto, e Rete4 manda in onda l'audio, si parla del giudice Franco. La Verità e Il Manifesto hanno più o meno la stessa apertura, altro che plexiglass e mascherine. A Lazzolina mancano 40.000 prof, dice La Verità. Il Manifesto titola sul record di cattedre vacanti e precari. E però il titolo di apertura, quello con la foto, è un fate presto, che ha a che fare con l'Ocean Viking, da 5 giorni nel Mediterraneo con a bordo 117 migranti e ieri ne ha salvati altri 47, mentre è in corso la discussione per la modifica ai decreti sicurezza. Arriveremo tra un attimo a tutte le questioni europee, alla Germania che assume la presidenza oggi, appunto la presidenza di turno dell'Unione Europea, e quindi il paese leader dell'Europa che assume anche la presidenza di turno, e quindi una doppia leadership, quella di fatto e quella anche di diritto in questo periodo, e ci arriveremo tra poco. Fatemi iniziare come sempre da qualcosa di diverso, anche se quel qualcosa di diverso è qualcosa del quale ci occupiamo da giorni e sul quale ieri siamo tornati alle 8.20 ospitando Giovanni Toti, il presidente della Liguria, ed è la condizione incredibile nella quale versano le autostrade liguri. Perché, insomma, se da una parte ci si è lamentati per anni che non venissero fatte le manutenzioni e dopo Ponte Morandi tutto questo è esploso, dall'altra parte, insomma, si è deciso poi di concentrare queste manutenzioni, in particolare quelle delle gallerie, nelle settimane immediatamente successive al lockdown. Il tutto di concerto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la stessa Autostrade. Morale, ci sono delle condizioni di delle possibilità di viaggiare sulle autostrade liguri che sono praticamente nulle. Lo raccontavamo ieri alle 8:30 del mattino, ci si metteva 1:10 di fatto a scavallare Genova, a percorrere 30 chilometri. Ci racconta oggi il Sole 24 Ore, a pagina 14, un'altra giornata drammatica ieri. Dunque, le autostrade liguri, 2000 tir bloccati, autotrasportatori mobilitati, un'altra giornata lacrime e sangue, racconta Raul De Forcade, per il traffico sulle autostrade liguri. Secondo i dati degli autotrasportatori, circa 2000 tir sono rimasti fermi in coda. 2000. E di questi centinaia si sono ritrovati bloccati per ore dentro il porto di Genova, i cui varchi sono stati chiusi per evitare che altro traffico pesante si riversasse sulla viabilità. E ora Trasporto Unito minaccia un fermo dei servizi di protesta, mentre Confartigianato, FAI e FIAP di Genova hanno confermato la sospensione già annunciata il 26 giugno del fermo da ieri al 4 luglio, che era stata indetta in precedenza, mentre il ministro dei trasporti Paola De Micheli ha annunciato su Facebook che dal 3 luglio verranno progressivamente chiusi i cantieri per arrivare al 10 luglio con due corsie libere in tutta la Liguria. Fatto sta che la situazione è quella che anche molti nostri ascoltatori possono testimoniare, quelli che ci viaggiano quotidianamente e quelli che in Liguria ci vanno o hanno provato ad andare per fare un fine settimana di mare. Ed è una situazione che non si sblocca, che teoricamente dovrebbe sbloccarsi dal 10 luglio, ma adesso, se andiamo a vedere per esempio le pagine del giornale, il giornale racconta di una metà luglio e quindi termini che si fanno via via più vaghi, senza una chiara comprensione di quello che succederà. La realtà è che nella giornata di oggi dovrebbe esserci un nuovo confronto. Il ministro De Micheli appunto ha rinviato il confronto a oggi. Il sindaco Bucci racconta sempre al Sole 24 Ore, ha chiesto tre cose: che dal 10 luglio ci siano due corsi libere per ogni carreggiata dalle 6 alle 22 e che le ispezioni vengano fatte di notte, che i lavori di ANAS sulle strade non siano sottratti di viabilità corrispondenti a quelli delle chiusure autostradali e che si decida al più presto, perché l'altro paradosso: chi farà l'ispezione di viabilità del nuovo ponte di Genova? Il quale ponte di Genova, come abbiamo raccontato, il nuovo ponte di Genova vive un paradosso, perché il tratto prima è in concessione ad autostrade, il tratto dopo è in concessione ad autostrade, ma il decreto Genova prevede che la concessione sul ponte venga tolta ad autostrade e quindi non si sa chi farà la verifica prima della riapertura. A proposito di viabilità, o meglio di trasporti per meglio dire, c'è un pezzo dalla cronaca di Roma del Messaggero a pagina 35 che ci racconta un po' le difficoltà che vivono in Roma. Guardate, poi Roma sul fronte del trasporto pubblico, come ben sappiamo, è un caso particolare, ma mi pare che possa essere rappresentativo dei problemi che si trovano ad affrontare in questa fase anche le aziende di trasporto pubblico locale, alle quali è venuta a mancare ovviamente una fonte di introiti enorme negli ultimi due mesi, tre mesi, perché non si è spostato nessuno, molto semplicemente, quindi già in difficoltà economiche si trovano ad affrontare dei costi che diventano sempre più alti dal lato della sanificazione. Dunque, la sanificazione dei mezzi è al palo, ci racconta il Messaggero, in ATAC. Sono coperti, attenzione, solo 15 capolinea su 400, questo è il livello, 15 capolinea su 400, e manca anche chi controlla. Il pezzo lo firma Francesco Pacifico, appunto, siamo nella cronaca romana del Messaggero. Gli addetti alle sanificazioni sono presenti soltanto su 15 capolinea contro i 400 presenti a Roma. Molte delle ditte esterne che dovrebbero occuparsi delle sanificazioni sulle metro e bus hanno ridotto della metà il personale che garantivano durante il periodo del lockdown, senza contare che alcune pagano in ritardo i loro dipendenti e così i turni restano sguarniti. Se non bastasse ancora, in circolazione ci sono soltanto 250 verificatori per controllare che i mezzi di superficie, i convogli, le salette per il personale, le banchine delle stazioni non soltanto siano lindi e pinti, ma anche disinfettati a prova di virus. Una pausa. Mattino. Le condizionalità del MES non sono state levate. Se lei ha in mano, è in possesso di un documento ufficiale da parte dell'Europa che dice che le condizionalità del MES non ci sono più, lo mostri. Che fatica. Caro Paolo Mieli, buongiorno. Buongiorno, oggi sono così, sono un po' scoraggiato. Che dobbiamo fare? È una giornata così, sono un po' di stanchezza, evidentemente. La fine, ma devi gioire, la fine della perché oggi la Merkel prende le redini dell'Europa e questo ti deve dare buon amore, perché sì, sarà un semestre importantissimo, quello con anche la Merkel alla guida dell'Europa. oggi si volta pagina, quindi lascia il malumore a ieri. Sì. E sì, contento. Tra l'altro la Merkel ha parlato 45 minuti al telefono con il nostro Presidente del Consiglio Conte. Qua non hanno parlato di MES, lo dico per gli ascoltatori che ci hanno ascoltato tutti questi giorni parlare di MES, ma insomma i due sono andati d'accordo. Tra l'altro perché hanno parlato, perché il 17 luglio c'è un importante consiglio dell'Unione Europea, il 13 luglio, io leggo tutto da Gerardo Pelosi sul Sole 24 Ore, il 13 luglio il nostro Presidente del Consiglio andrà a Berlino, insomma c'è un buon clima con la Merkel, anche se noi abbiamo questo bubbone, non so come altro chiamarlo, del MES che non riusciamo a sciogliere, perché sì. I 5 Stelle continuano a dire no, non vogliamo parlarne. Per quanto dicevo che qualcosa si è mosso. Sì, ne parla oggi, leggevo, soprattutto Luciano Capone sul Foglio lo racconta, perché sì, insomma, oltre a prendersene un po' con Marco Travaglio, questa battaglia tra il Foglio e il Fatto Quotidiano abbastanza frequente, con Marco Travaglio per un suo articolo ieri proprio sul MES, racconta in chiusura se Sibilia, ve lo ricordate, quello che non credeva allo sbarco sulla Luna, adesso apre al MES. Adesso dice che senza clausole, senza le condizionalità, il MES è un'altra cosa, lo si può riconsiderare. Qualcosa si muove nei 5 Stelle, solo che i tempi dei 5 Stelle sono biblici. Loro fanno capire, lasciano intendere che voteranno sì al MES in settembre. Se si fa in settembre e dopo... Che altri, che non mi chiedere perché, settembre, forse perché vogliono passare l'estate tranquillo, vogliono vedere come vanno le elezioni regionali del 20 settembre e poi votare, vedere anche se il governo regge. Sì, certo. Ma comunque loro dicono che votano, per cui qualcuno, ieri anche prima di Nicola, che è un altro esponente dei 5 Stelle, un ex giornalista dell'Espresso, ha detto ma no, si può votare il MES, uno, due, tre, uno al giorno. Dicono sì, ma comunque la Merkel ieri non ha posto condizioni, almeno a quello che si è saputo in questa telefonata con Conte. Se volete sapere tutto di questo semestre della Merkel, leggete un articolo di Paolo Valentino, pagina 19 del Corriere della Sera. Se volete sapere i rischi che corre Conte ad andare lì a mani vuote, leggete l'articolo di Lina Palmerini sul Sole 24 Ore a pagina 5. Sì, sì. Se Conte va a mani vuote al Sole, dice Lina Palmerini, non è una bella cosa. Sì. Perché, no, decisamente. Poi c'è anche, voglio segnalare, anche Tommaso Ciriaco, insomma, e Tonia Mastrobuoni sulla Repubblica ci raccontano un po' delle condizioni che Merkel starebbe ponendo proprio per la trattativa. A proposito di Europa, Paolo, oggi, ieri è stata la giornata nella quale Bruxelles ha detto quali sono i paesi che potranno, quali sono i paesi verso i quali si possono riaprire i confini. Tra questi non ci sono gli Stati Uniti, e il Sole 24 Ore ci dedica l'apertura alla parte turistica soprattutto. Io l'ho letto in un articolo di Enrico Netti, dice che il turismo senza Stati Uniti e Russia, l'Italia perde i clienti del lusso e diciamo si rischia senza gli Stati Uniti, titolo grande prima del Sole 24 Ore, 5 miliardi in meno, non è poco. E più in generale, guardate, noi qui in Italia stiamo festeggiando perché i contagi sono in diminuzione, ma negli Stati Uniti siamo all'impazzimento, adesso è esplosa anche la California, ieri era esploso il Texas, i contagi, hai visto che Fauci dice che potrebbero essere 100.000 al giorno. Insomma, noi viviamo in una, come vediamo adesso per il traffico del turismo, viviamo in una economia dove tutto è legato, per cui non possiamo gioire e fare i fenomeni tranquilli se lì dall'altra parte dell'oceano ci sono 100.000 casi al giorno. Potremmo essere ancora nel pieno delle cose, ovviamente ci auguriamo di no, ovviamente non vogliamo fare il cielo del malaugurio, ma non è ancora chiaro che questa epidemia sia finita, ne bastano i contenimenti. I contenimenti, insomma, anche in Cina i contenimenti di colla all'aeroporto o alle frontiere. In Cina, per esempio, questa nuova ondata epidemica si è affacciata per dei contagi di ritorno, cioè persone che tornavano in Cina e la Cina si era liberata, sì. e la riattaccavano, contagiavano, sì. Al loro mondo. Visto che siamo sulla Cina, Paolo, ti porterei ad Hong Kong, dove nel giorno nel quale si ricorda, oggi 1 luglio, i 23 anni dal ritorno di Hong Kong sotto il dominio cinese, ebbene, il dominio cinese viene esercitato sempre con maggiore... Sì. La Cina, non si è fatta intimidire da 8 mesi di manifestazioni, le abbiamo seguite quasi una a una, molto vivaci, e oggi annuncia un giro di vite, dice: guardate, qualsiasi cosa voi facciate sarà regolata secondo le leggi cinesi, cioè attentato alla sicurezza dello Stato, e abbiamo pene severissime. E gli stessi manifestanti, i leader delle manifestazioni, sembrano essersene resa conto, tant'è che annunciano un periodo un po' più sorvegliato. Ieri c'è stata una manifestazione aveva meno partecipanti, perché finire nei rigori delle leggi cinesi è una cosa che spaventa un po' tutti. Sì, sicuramente. Devo dire che se dovessimo fissare la partita ad oggi, ha vinto Pechino, nel sì. senso che mesi e mesi di manifestazioni, quelle degli ombrelli, noi davamo grandi speranze, riponevamo grandi aspettative, grandi speranze a queste manifestazioni, ma purtroppo poi la durezza di un potere centrale come quello di Pechino ha avuto la meglio. Ha avuto la meglio, decisamente. Molte cronache le trovate un po' su tutti i giornali, forse la migliore su questo fronte mi pare quella del Corriere della Sera. E il traffico, ci ritroviamo tra un attimo e apriremo con la questione Berlusconi. Mattino. Allora, tre giornali per avere due visioni diverse della vicenda Berlusconi, della quale gli ascoltatori sanno, abbiamo ampiamente parlato ieri, abbiamo cercato di ricostruire per quanto ovviamente complessa. E questi tre giornali sono Libero, il giornale da un lato, La giustizia si vergogni, condannò Silvio senza motivo, il titolo di Libero, Le carte del golpe, il silenzio dei complici, quello del giornale, e dall'altra parte Il Fatto Quotidiano, con questo titolo che riguarda il giudice Franco, quello del quale sono emerse le registrazioni, 368 milioni di dollari, morto che parla, questo è il titolo del Fatto Quotidiano. Vicenda complessa, Paolo, che però insomma apre un ennesimo capitolo della questione giustizia politica. Beh sì, è una vicenda abbastanza clamorosa, c'è... un giudice che partecipò alla sentenza che mise fuori gioco Berlusconi nel 2013, che qualche tempo dopo, parlando proprio con Berlusconi, una conversazione registrata, se presume sapesse che era registrata, gli ha detto: noi ci comportiamo come un produttore di esecuzione, tutto era già deciso, è una cosa che mi fa soffrire terribilmente. Le carte del golpe, il silenzio dei complici, dice il giornale, tutti i giornali di destra, come tu hai detto, anche La Verità, aprono e danno grande risalto a questa vicenda. E per l'occasione segnalo che anche Il Foglio, che nell'ultimo anno si era molto staccato dai giornali di destra, aveva fatto un grande applauso per esempio al processo a Salvini, quindi non era più nella stessa corda, invece oggi è di nuovo le porcherie rimosse contro Berlusconi, insomma è di nuovo rivendica, anche perché all'epoca Il Foglio era un giornale molto intensamente berlusconiano. Ma devo registrare che anche gli altri giornali, a parte Il Fatto che tu hai citato, anche gli altri giornali sono cautamente, diciamo, sorpresi da questa notizia. Voglio dire, non dico che siano berlusconiani, ma insomma danno un risalto, non minimizzano, non fanno come forse avrebbero fatto altre volte, insomma, la notizia di questa registrazione è stata come un colpo allo stomaco. Il giudice, per la cronaca, è morto. E perché si sono aspettati 7 anni, visto che la registrazione è stata fatta 7 anni fa, e si è aspettata la morte del giudice, che è la stranezza su cui punta l'indice? Il fatto perché, se avesse parlato mentre era vivo, cioè se fosse stato rivelato mentre era vivo, era un reato gravissimo, perché i giudici non possono violare, i giudici che partecipano a un verdetto, insomma, chi viola il segreto della Camera dei Consigli commette un reato, un illecito disciplinare molto molto grave. Quindi questa è la spiegazione perché è stato reso noto solo dopo la morte. Sì. Insomma, è un fatto che è notevole, al di là dello specifico, che se la vedranno poi in Europa, se riabilitarono Berlusconi, insomma, ci sono dei meccanismi complessi sui quali è inutile soffermarsi, ma dopo tutte le storie di Palamara, di cui abbiamo lungamente parlato nelle settimane scorse, aggiunge un ennesimo macigno sull'immacolata giustizia, cioè fa pensare che lì dentro, che dentro queste segrete stanze si mettano sentenze sulla base di considerazioni non soltanto giuridiche, cioè c'è un sacco di gente per bene, però ci sono anche molte persone che decidono per motivi politici. Un particolare che non passerà inosservato è che questo giudice raccontava che Napolitano, allora Presidente della Repubblica Napolitano, esultava per queste sentenze contro Berlusconi. Io personalmente non ci credo, però perché Napolitano era un uomo sorvegliatissimo, in più per lui questa sentenza di condanna, Berlusconi in quel momento era il governo, nel 2013 si era appena fatto il governo Letta, il fatto che finisse agli arresti causò una crisi di governo, mi mise fortemente in difficoltà, e quel governo era stato fortemente voluto da Berlusconi. Non ve la sto a far lunga, ma questa esultanza di Napolitano non ci credo, però lui lo dice e così, non mancherà di essere rilevato. Assolutamente. Da un leader di centrodestra ti voglio portare a due leader, uno di sinistra e uno di centrosinistra. Quello di sinistra è Fausto Bertinotti, che è un po' torna le pagine dei giornali. Qual è? Che è la storia libero, di questi quadri. Ha pubblicato una foto di casa sua con 3 serigrafie di Andy Warhol, il famoso quadro niente male. Dice: valgono $1,500,000 ciascuna. Beato Bertinotti, che insieme a 1000 altri quadri. Allora oggi c'è una scatenata intervista di Bertinotti sul Corriere della Sera a Fabrizio Caccia. Dice: ma quando mai? A me me l'ha regalata Mario Durso, anzi una me l'ha regalata, ti ricordi Mario Durso, amico suo morto nel 2015. Una me l'ha regalata, 2 me l'ha lasciata in eredità. C'è allegato un'expertise che dice che valgono poche migliaia di euro, non è vero, e anche gli altri quadri me l'hanno regalati perché io sono amico di un sacco di pittori, uno solo l'ho comprato 55 anni, molto specifico, 55 anni fa, la festa dell'Unità di Novara, una piccola serigrafia di un autore forse il più sconosciuto, tale Lattanzi. Tu c'hai un quadro di Lattanzi no, a casa? No, figuriamoci. Non ho quadri di Lattanzi. In compenso io di lavoro in casa ne faccio tanto, a differenza di Tony Blair. E qua veniamo all'altro leader di centrosinistra. Quello questo è un caso che sta sconvolgendo davvero l'intera, simbolo del progressismo internazionale, titolo il titolo, sì, lo posso leggere, ti prego. Dal 1997 l'ha detto lui in un'intervista domenica al Sunday Times, ha detto: sapete, a me non piacciono lavare i piatti, non mi rifaccio il letto, non faccio nulla. Dice: ma avrete un immenso servizio? No, nessuno, li fa mia moglie, all'occorrenza li fanno i miei 3 figli. Ora, tutti lo sanno, Cherie Blair, la moglie, è un'avvocatessa più importante di lui, lui è un leader, però il bello è la sfrontatezza con cui lei ieri ha dovuto correre i ripari. Lei è moglie di Tony Blair da 40 anni, ha fatto un'intervista a Daily Telegraph, godibilissima, in cui ne parla di questo marito come così... di un povero essere arcaico che dal giorno in cui entrò a Downing Street si è considerato, ha considerato un'offesa. Pantofole, birra, pantofole, birra e donna va in casa e va in cucina a lavare i piatti. Vabbè, sì, non dico, sul Guardian c'è un articolo di Susan Moore divertentissimo in cui lo prende. Di Nina, vorrei dirti che però ci sono molti leader della modernità, di sinistra, progressisti come Mark Zuckerberg che passa praticamente tutta la sua vita in cucina a rifare i piatti, e persino il marito della premier neozelandese che si chiama Jacinta Ardern, che anche lui sta in cucina, credo che gli passi anche uno stipendio la moglie. Ah, niente male. E quindi non sono tutti come Tony Blair, ma Tony Blair, il bello è la tranquillità con la quale lo dice: non lavo un piatto dal 1997. Adesso capisco perché tu hai premesso: io lavo tutto, tutto. Su quello non c'è dubbio. Verificare con Anna. GR24, ci risentiamo subito dopo. Grazie Paolo Mieli, a venerdì, ciao.